24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura andiamo a Bruxelles per la riunione dell'Eurogruppo, cui ha partecipato anche il Premier Mario Monti in veste di Ministro per l'Economia. Tra i temi al centro della riunione lo sblocco degli aiuti per la Grecia e il potenziamento del Fondo Salva Stati. Sentiamo da Bruxelles Antonio Poglio Salimbeni dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cor. Via libera formale entro la settimana al secondo pacchetto di aiuti alla Grecia, nessuna decisione sul rafforzamento del fondo permanente salva stati, se ne riparlerà a fine mese nel corso della riunione informale a Copenaghen. Sono queste le indicazioni dell'Eurogruppo, i ministri finanziari tirano un respiro di sollievo dopo l'avvio dello scambio dei titoli ellenici con una pesante partecipazione del settore privato. Restano comunque delle incertezze, ma la svolta c'è stata, i mercati restano sospesi sul futuro, si vuole capire quando sarà aumentata la potenza di fuoco del mercato. Meccanismo di stabilità europeo, il fondo salva stati che entrerà in vigore da luglio e soprattutto si vuole capire di quanto sarà rafforzato. Berlino frena ancora come sempre, si lavora all'idea di far procedere fianco a fianco l'attuale fondo e quello permanente, garanzie per 250 miliardi più 500 miliardi di capacità effettiva di prestito. Dovrebbe essere abbastanza per convincere il Fondo Monetario Internazionale a fare la sua parte. Intanto emerge l'idea di Monti, futuro presidente Eurogruppo, il giornale francese Le Monde indica che il presidente europeo Van Rompuy lo ha sondato, nessuna conferma, nessuna smentita. Per l'oggi è chiaro che Monti non può avere un terzo incarico, oltre a quello di premier e ministro dell'economia. In futuro chissà. Grazie ad Antonio Poglio Salimbeni. Intanto chiusura contrastata per i listini del vecchio continente. In attesa del via libera delle autorità europee alla ristrutturazione del debito greco, le borse chiudono una seduta contrastata e attorno alla parità. E così se Parigi registra più 0,07% e Francoforte più 0,3%, a Milano il FTSE MIB chiude a meno 0,13% grazie ai balzi di Parmalat più 9% e Pirelli più 7%. Entrambi crescono dopo i brillanti conti del 2011. Guadagnano terreno anche Atlantia più 2,8% e Salvatore Ferragamo più 1,3%, mentre in coda al listino spiccano Campari meno 5,8% colpita dai realizzi in scia al bilancio 2011, Montepaschi meno 4,9%, Mediaset meno 3,7% e A2A meno 2,9% che paga le ipotesi di una mancata distribuzione del dividendo. Fuori dal listino principale balza Fiera Milano più 8,9%, mentre i realizzi colpiscono Premafin meno 8,5%. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Serve un chiarimento con le autorità inglesi per un blitz non ragionevole. Così il presidente del Copasir Massimo D'Alema al termine dell'audizione del direttore dell'AISE, generale Adriano Santini. A Gattinara, funerali solenni per l'ingegnere italiano ucciso in Nigeria, Franco La Molinara. Lutto cittadino a Gattinara, mentre a Roma il Copasir chiede chiarimenti sul blitz che ha causato la morte di Franco La Molinara. Nel giorno dei funerali dell'ingegnere ucciso in Nigeria, il paese in provincia di Vercelli chiude le scuole, 2000 persone assistono alle esequie e ad accompagnare il feretro c'è il ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata. Intanto a Roma si riunisce il comitato parlamentare per il controllo dei servizi segreti e ascolta il direttore dell'AISE, l'agenzia informazioni e sicurezza esterna, il generale Adriano Santini, che avrebbe confermato non eravamo a conoscenza del blitz. Al termine il presidente del Copasir Massimo D'Alema chiede spiegazioni al governo britannico. Dal resoconto emerge con chiarezza la necessità di un ulteriore chiarimento con le autorità britanniche. Il fatto che questa operazione militare, che doveva essere un blitz per la liberazione degli ostaggi, è stata una battaglia che è durata almeno un'ora e mezza, che si è conclusa con la morte degli ostaggi. Per D'Alema la visita del ministro degli esteri britannico sarà l'occasione per avere i chiarimenti necessari e mercoledì il Copasir ascolterà il ministro della difesa Giampaolo Di Paola e presenterà le conclusioni al premier Mario Monti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Angela Merkel, in visita sorpresa nel nord dell'Afghanistan, si è detta scettica sul ritiro dei soldati ISAF e tedeschi entro il 2014. La volontà c'è, ha detto la cancelliera, ci stiamo lavorando, ma nonostante i progressi, il processo di riconciliazione nel paese, soprattutto con i talebani, non è sufficiente per ritirare truppe e sostegno internazionali. È molto importante che gli afghani non vengano abbandonati quando ci ritireremo nel 2014, ma che si vada avanti nella ricostruzione del paese, ha spiegato il capo del governo tedesco, e saremo anche a disposizione, aggiunta, impiegato per gli addestramenti. Con 4.900 uomini, la Germania è la terza forza internazionale sul posto dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. Grande polemica in Italia per la sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la pena inflitta in appello al senatore Marcello Dell'Utri. La discussione è sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Troppo generico, secondo alcuni, secondo altri invece questa è la chiave per far rientrare condotte altrimenti non punibili. Il concorso esterno è un reato previsto anche negli altri paesi europei. Lo spiega il professore di diritto penale Costantino Visconti al microfono di Valeria De Rosa. Il problema del colpire la contiguità alle organizzazioni criminali è un problema che viene affrontato nei vari paesi europei in modo diverso, ma sempre. E negli altri paesi è tipizzato questo tipo di reato di contiguità? In Francia si preferisce, come in Italia, lasciar campo libero alla clausola generale del concorso di persone. In Germania viene colpito tipizzandolo la condotta di chi sostiene l'organizzazione criminale. In altri paesi ci sono soluzioni ulteriori più tipizzate, ma sempre con clausole generali. Ogni paese ha i suoi problemi. La Spagna ha avuto e ha l'ETA e quindi abbiamo lì il concorso nell'associazione terroristica. In Germania hanno avuto anche il terrorismo e quindi hanno l'organizzazione criminale con una tipizzazione legata appunto alla partecipazione come membri o comunque chi sostiene. Il tema della mafia non ha spinto questi grandi paesi di tradizione, salvo la decisione quadro del 1998 che ha spinto Lussemburgo, Belgio e poi Austria a introdurre una fattispecie di reato associativo comprensiva della punibilità della condotta dell'esterno. È l'inglese, come era prevedibile, la lingua maggiormente conosciuta dai visitatori delle biblioteche di Roma che hanno partecipato al sondaggio Eurispes 2011 conosce le lingue estere, i cui risultati sono stati presentati presso la Commissione Europea Rappresentanza in Italia. Dopo la lingua di Sua Maestà, il 92,6%, i visitatori delle biblioteche di Roma che hanno risposto al questionario affermano di sapere il francese nel 42% dei casi, lo spagnolo nel 26,6 e il tedesco nel 9,1. I risultati della ricerca fatta in collaborazione con l'European Union National Institutes for Culture evidenziano inoltre quali lingue vorrebbero conoscere gli intervistati. Il 43,4% studierebbe lo spagnolo, seguono il tedesco, il francese e l'inglese o il portoghese. In questa Europa dove si parla sempre di soldi, dimentichiamo troppo spesso che l'Europa è prima di tutto un progetto culturale, ha commentato Susan Earn, direttrice del Goethe Institute e presidente dell'European Union National Institutes for Culture. È uno dei trofei più importanti della storia delle Olimpiadi, ma il suo destino è finire presto all'asta vittima della crisi economica. Sentite di cosa stiamo parlando. 15 centimetri in cui sono racchiusi una quarantina di chilometri e 116 anni. Tanto è alta infatti la Brill Silver Cup, la coppa che premiò il greco Spiridon Lewis, l'atleta che vinse la prima maratona olimpica della storia, proprio ad Atene nel 1896. Bevendo cognac, birra e succo d'arancia, Spiridon, che conosceva Atene come le sue tasche, essendo un venditore d'acqua minerale, compì quell'impresa. Al re di Grecia chiese in dono un carretto e un asino per trasportare la sua acqua, ma quel mito è tutto racchiuso in quella coppa. Finora, perché ora sta per essere venduta dagli eredi di Spiridon, che vedono nella coppetta il modo migliore per incassare un po' di euro e far fronte alla crisi che attanaglia la Grecia. La decisione ormai è presa, il trofeo, valore stimato 150.000 euro, verrà messo all'asta il 18 aprile da Christie's a Londra, insieme ad altri cimeli olimpici. Ma nessuno brillerà come la coppa di Spiridon Lewis. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Paolo Corleone in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.